Oh, senti un po'. Comando. Il cavallo è morto? Sì. Tu come cocchiere sei licenziato. Ergo, a partire da oggi, te ne viri di meno sul salario. È chiaro? Vai! Sì. Vai! E io vado! E io vado! Mangiati e mangiati, e mangiati sempre voi. E noi! E noi paghiamo! Terror Rebel, l'unimo, l'ufuscolo, Federico e Ubalogo sono basta base. Questi sono i sordi di la società, ricordativi di noi casta, rimanimo qua, son tu sordi di tutti, minti di vilo a capo mo a re, lo ripeto cagiati, nasci rato. Questi sono i sordi di la società, ricordativi di noi casta, rimanimo qua, son tu sordi di tutti, minti di vilo a capo mo a re, lo ripeto cagiati, nasci rato. Ma già fatto grande, non ci è cambiato niente, prima alla pede mo cadegno pure la patente, non ci riesco con tegno, li ue chi chiusi, mi modo e mi giro e sopra la merda tutto sulle cose. Niente di campo marino, lo conosco, già visto, e d'antica Roma stiamo alli tempo di Gesù Cristo. Ma non scusati, è un palazzetto dello sport. Mamma mia che ho proprio gli occhi brutto della morte. Ma io ora mi chiedo illustrissimi signori, ma da punto dei sordi e sta cosa è lassata. Ma voglio assaggio più piaceri e più favori, qui c'è cazzo di sordi la tappagliata. Manda retorica, sì signori, lo ammetto, vi sicuro non ero un tipo già vostra. La situazione sembra proprio un bello dispetto, facite le cose soltanto con filmi ti dimostra. Questi sono i sordi di la società, ricordativi di noi casta, rimanimo qua, son tu sordi di tutti, minti di vilo a capo mo a re, lo ripeto cagiati, nasci rato. Questi sono i sordi di la società, ricordativi di noi casta, rimanimo qua, son tu sordi di tutti, minti di vilo a capo mo a re, lo ripeto cagiati, nasci rato. Brutti puerci, non ci torno, non li punta, da mangiato più di ieri, da spicciato li contante, non c'è da sparto tu buena, tutti quanti li parienti, stare attenti, delinquenti, a questa morraggiati tutti quanti, con le mani, con i piedi ragionati, qua la cidi combinati, ancora non fa da binchiati, ricordati, dagli soldi, sti pezzi sono sudati e non rubati, novizia di rispetto, buracino ben mutati, tanti soldi in quantità, sine, money, money, money, non pinzata all'acqua, ma tu merda di palloni, non bastava l'erba per gli sciugaturi, e poi quando piovi li spatti coperta, tutti gli signori di qua pussi, stati sopra tuo palazzo, da sommo tu educato, e lo volgare non lo passo, ha da capito un buon e non tra rima di rimpiazzo, lo rispetto per le buberie di notte e prezzo. Questi sono i sordi di la società, ricordativi di noi casta, rimanimo qua, son tu sordi di tutti, minti di vilo a capo mo a re, lo ripeto cagiati, nasci rato. Questi sono i sordi di la società, ricordativi di noi casta, rimanimo qua, son tu sordi di tutti, minti di vilo a capo mo a re, lo ripeto cagiati, nasci rato. Si ne siamo mo per la campo marina, una yacht, un parcheggio, ma una bocca come arriva, mi fermo due secondi proprio al tabacchino, ma là dietro in agguato ci sta il vigile urbano. Non sapevo che fumare in fondo faceva male, ma 30 euro un pacco non potevo immaginare. Questa è una grande iniziativa comunale, la prossima ci pensi per fumare. Mo questo spavento è meglio che amano può fumare, ma tocca ma fraccata peggio forte qui nell'aria. Ma gli sono prevenuto, tengo la mascherina, siamo a fumare con vestito da regina. Facciamo una bella cosa, stamanina tutti in casa, ma c'è che tutti si rognano a bocchia, ma anche la iosa. Per non parlare poi di tutte le mie spese, fra adesso è chiaro tutto Italia. Questi sono i sordi di la società, ricordativi di noi casta, rimanimo qua, son tu sordi di tutti, minti di vilo a capo mo a re, lo ripeto cagiati, nasci rato. Questi sono i sordi di la società, ricordativi di noi casta, rimanimo qua, son tu sordi di tutti, minti di vilo a capo mo a re, lo ripeto cagiati, nasci rato. Io e l'istemi mo' Federico andu ballo con mani di son terrore per anche politiciante un ultimi word un gnam gnam gnam address to all brother them world big up. Provvederemo tutti insieme, qualche cosa cambierà, che anche a Baia non morde, sì ma prima o poi smetterà. We never put a need a good man, you have to give me money, something man. Questi sono i sordi di la società, ricordativi di noi casta, rimanimo qua, son tu sordi di tutti, minti di vilo a capo mo a re, lo ripeto cagiati, nasci rato. Questi sono i sordi di la società, ricordativi di noi casta, rimanimo qua, son tu sordi di tutti, minti di vilo a capo mo a re, lo ripeto cagiati.